parla di un ragazzo che noi stasera vogliamo ricordare insieme a tutti gli altri che sono volati in cielo sulla strada della nostra rivoluzione. È una canzone molto bella che in particolare è dedicata ad un ragazzo greco, uno studente universitario, Mikis Mantakas, che nel 1974 venne ucciso dalla barbarie comunista, cadde sotto i colpi di una P-38 scagliata da una vespa da due comunisti. Noi vogliamo ricordare Mikis e tutti gli altri camerati con questa canzone e alziamo forte il nostro coro affinché possano sentirci e capire che quella lotta non è finita, quel sogno è ancora vivo e brucia nei cuori di tutti noi. Io non so dimenticare, ma mi viene la vergogna nel vedere un ragazzino che era già messo alla gogna per aver voluto dire. Io non so dimenticare un passato dignitoso per il quale provo onore, che veniva trascinato per i corridoi di scuola col cartello appeso al collo, con su scritta una parola che per noi voleva dire. Tutto quanto il mondo era il simbolo del male, ma noi siamo ancora qui per ricordare che noi siamo ancora qui e per chi vuol dimenticare. Io non posso selciato e del fiore che sbocciava, dal suo sangue era grumato e un bastardo giornalista preparava già una storia dalla trama un po' già vista, e per sporcarne la memoria tanto da arrivare a dire che era stato un suo fratello approfittando del bordello per far ricadere la colpa su quei poveri compagni vittime senza giustizia, del fascismo e dei suoi inganni. Ma noi per ricordare questo siamo ancora qui e ti vuol dimenticare. Io non chiedo la vendetta, mi aspetto trasparenza, questa terra non conosce la giustizia, voglio solo ricordare, ma senza scomodare i morti, anche almeno i nostri lo conoscano e tutti dai, dai, facciamo sentire la nostra voce, dai, e noi siamo ancora. Insieme dai! Per mille, mille Grazie.